Sempre con Rock Legends su Radio RCS, l'onda veronese. Le frequenze, come tradizione, le facciamo dire ai nostri ospiti, che questa sera sono i Razzmatazz. Allora, sono le frequenze per ascoltare Radio RCS, sono 98.6 per la bassa veronese e zone della Lessinia, 101.5 per Verona città e rimanente provincia, 91.5 per la zona lago, e poi, Albi? Radio RCS la potete ascoltare anche in streaming dal sito www.radiorcs.it. Dall'hard rock degli anni 70 ad una parte dedicata al genere che è stato definito glam metal o hair metal di matrice prettamente americana. Primo brano dei Twisted Sister, la band guidata da Dee Snider, che nel 1984 uscì con il disco Stay Hungry, e da cui ci siamo ascoltati il grande hit I Wanna Rock. Formazione assolutamente incredibile che ha influenzato per alcuni anni i giovani grazie alle loro canzoni provocatorie e al look decisamente appariscente. Che ne pensate? Beh, per questione di look... Adesso non dire quello che mi hai detto prima. Non sono, diciamo, le gemme. Dee Snider, no, è un bestione di due metri. Allora, io mi ricordo, le gemme sono una cantante bella e stravagante, e sono loro. No, dai, contestualizziamo. No, Dee Snider è stato. Quella era gemme e hologram. Esatto, gemme e hologram. Esatto. No, Dee Snider è stato un genio, e soprattutto è una persona che merita rispetto per quanto ha avuto il coraggio di sostenere davanti al congresso americano in tempi non sospetti, in puro. Per benismo qui americano, qui è conoscenza famoso parental advisory, esatto, e quindi ha avuto il coraggio di mettersi davanti in prima persona, tra l'altro dichiarando che nonostante i suoi capelli lunghi e i suoi jeans strappati, lui era comunque una persona che non assumeva droghe, non fumava e non beveva alcolici. Global Revolution è il titolo del vostro disco. Qual è il significato di questa semplice frase? Allora, intanto non doveva essere Global Revolution il titolo del disco, ma semplicemente Razzmatazz, sull'onda dell'amore che provo io per gruppi, per i Led Zeppelin sostanzialmente, che il primo disco l'hanno chiamato semplicemente col nome della band. Poi abbiamo deciso Global Revolution perché appunto nella preproduzione è saltata fuori questa canzone, che è un classico giro di hard rock anni 70, un po' velocizzato. Il testo parla un po' di quello che sta succedendo in giro, che è un po' un casino, secondo me. Un problema. Abbiamo deciso che Global Revolution poteva dare l'idea, insomma, di come mi sentissi io quando ho avuto la possibilità di scrivere questo testo. Tra gli esponenti del glam metal di Los Angeles ci sono sicuramente i Motley Crue. Nel 1989 rilanciano la loro carriera musicale con il disco Dr. Feelgood, del cui ci sentiamo la title track. We'll be right back. Oggi noti soprattutto per il batterista Tommy Lee e per le sue ex mogli, i Motley Crue hanno rappresentato il simbolo di quella California motociclette belle ragazze che l'ha sempre caratterizzata anche negli anni 80, che ne dite? Beh, intanto complimenti a Tommy Lee per le mogli, soprattutto per una, insomma. Ma c'è la Pamela Anderson. E per la sua carriera cinematografica. Sì, anche, non, che ha fatto non tra l'altro perché è brutta e ma è bravissima a recitare. Bravissima. No, Motley Crue sono un gruppo che a me non fa impazzire, però Tommy Lee alla batteria, per chi vuole fare hard rock, è da ascoltare, perché poche cose ma fatte con precisione e la cattiveria è giusta. E tra l'altro Mick Mars, il chitarrista, che ovviamente è sovrastato come fama dai suoi colleghi, secondo me è un sottovalutato, ottimo, molto sottovalutato. Sì, molto sottovalutato. Mm. Evoluzione sonora della band, come siete sentite di essere cresciuti musicalmente in questi anni passati assieme, anche in termini di affiatamento? Beh, allora, la crescita, parlo a livello personale, è stata assoluta. A livello di affiatamento... Ci odiamo, siamo tre teste, ragioniamo con tre teste, per fortuna, e cerchiamo tante volte di arrivare a... insomma, di arrivare a un obiettivo, cerchiamo di arrivare a un obiettivo comune, anche se comunque le teste rimangono tre, ecco. Sì, questo sono... penso che abbia riassunto. Sei uno spettacolo, guarda, dovresti grazie. Fare filologia nella tua vita. Siamo tre teste di C, e no. Però per fare rock, insomma, tre teste di C sono meglio che una testa di C sola. Chiudiamo allora la seconda parte con gli Wasp, la band di Blackie Lawless, famosa per le sue esibizioni truculente sui palchi, dal disco The Last Command del 1985 con Wild Child. Nella terza e quarta parte, spazio disco di Razzmatazz dal titolo Global Revolution.